non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Niente, Jacopo stava parlando, l'ho interrotto brutalmente. Hai fatto bene. No, perché così le dice in diretta queste cose, che sennò poi stiamo parlando di sto film da 2 ore, dopodiché si è fatta una certa. Allora, benvenuti, puntata numero 58, stiamo registrando subito dopo quella vecchia, infatti notte fonda, io sono stanco e devo anche montare la puntata, vabbè, non ve ne frega nulla, ma mi piaceva questo momento condivisione. Questa sarà lampo, dai, se faccio, ce la togliamo no, subito. No, no, ma tranquillo, tanto io lavoro la sera, e letteralmente. Dicevo, parliamo un po' di... siamo io e Jacopo e basta, perché tutti gli altri ci danno un po' buca, un po' no. Questa era brutta, vabbè. Se non dicevi niente non mi rendevo neanche conto. Lo so, però faccio farmi ridere se lo dico. Comunque è colpa di Andrea. E, con router nuovo, tutto una... Vabbè, parliamo di 1917, ma l'avete capito un po' dal titolo. Titolo un po' strano, ma tanto ci sarà una spiegazione. 1917 è un film del 2019, ne parliamo adesso perché abbiamo parlato di The Lighthouse e mi era rimasto il tarlo di parlare un po' di, cioè la voglia di parlare un po' di il film che invece ha vinto il premio alla fotografia, l'Oscar a miglior fotografia del 2020, e The Lighthouse era candidato ma 1917 l'ha preso ed è l'unico Oscar che ha vinto. E, è un film di guerra ed è anche un po' un film storico più o meno, ed è tra l'altro un film che adesso è famosissimo, quindi in realtà io sto parlando ma lo conoscete già tutti, almeno per sentito dire. E, alla regia c'è, parlo io, dico due robe io, volevi subito dire un insulto all'Academy? Sì, all'Academy. No, beh, in realtà l'Academy ha fatto bene, adesso poi ne parliamo. No, no, vabbè, se lo meritava. Poi anche Blade Runner figo, stavamo di questo, infatti. No, vabbè, è che la cosa più bella di questo film, secondo me, è sì la fotografia, ma il montaggio. Sì, infatti, e tra l'altro, vabbè, ci sta che non nessuno abbia detto il montaggio è bello, perché di fatto la cosa particolare di questo film è che il montaggio non si vede e non si deve vedere. E... che è abbastanza... difficile da fare in realtà. Sì, e tra l'altro l'Oscar al miglior montaggio di quest'anno dove è andato? A chi è andato? Non lo puoi sapere. Perché Lee Smith ha vinto un Oscar al miglior montaggio. E alla scelta peggiore possibile è andato l'Oscar per il montaggio, Salla. Tra l'altro l'ho pure insultato a dovere quando Lee Smith, che è il montatore, cioè il direttore del montaggio, poi perché non l'avrà fatto lui da solo. E, ha vinto l'Oscar nel 2018 per Dunkirk, che è il film, è un film anche che ha sbancato parecchio. Quest'anno? Dai, dimmelo, non posso indovinarlo. Cosa? L'Oscar al miglior montaggio. Ma forse allora mi ricordo male, perché non può essere... Io pensavo che fosse Bohemian Rhapsody, ma mi sa che è stato nominato. 2020, aspetta. La vita. 2020 forse. Oscar 2020, miglior sceneggiatura, miglior film, miglior attrice protagonista, scenografia, montaggio. L'ha vinto Le Mans. Ah, ok, sì. Ah, no, ok, non è. Allora, l'ho insultato, mi sa che era stato nominato per Bohemian Rhapsody, però. No, l'anno scorso. Stanno Jojo Rabbit e Joker. Ah, l'anno scorso era! Tra l'altro, la cosa incredibile è che non è stato nominato neanche questo film per il miglior montaggio. Che ha senso, di fatto, nel senso che il montaggio, appunto, non lo vedi, quindi non c'è. Però un addetto ai lavori sa che in realtà è la sfida, una delle sfide più grandi. Vabbè, comunque ne parliamo, dai. Intanto, il regista di questo film è Sam Mendes, che non è il primo stronzo, anzi l'ultimo degli stronzi, perché tra l'altro il suo esordio era American Beauty nel 99, che ha vinto 5 Oscar, per dire di chi stiamo parlando, e ha diretto delle robe abbastanza toste, tipo Era mio padre, ha diretto anche 1007, che è Skyfall. Che Skyfall tra l'altro è il migliore. Sì, è il migliore di quelli nuovi, sì. E, quindi no, appunto, Sam Mendes è uno che sa il fatto suo. American Beauty, no? Appunto, American Beauty, sì, l'ha fatto, non si è perso quello che... Dicevo che è il suo esordio e ha vinto appunto 5 Oscar. E i due protagonisti, perché sono due protagonisti, in realtà poi è uno solo, è George McKay, che non conosco, però ha fatto qualcosa prima, non lo so, non l'ho mai sentito. E, sì, ha fatto un sacco di roba. E Dean Charles Chapman, che però è, vabbè, sì, che anche lui non so chi sia, che è l'altro. Come no, è Tommen. Chi cazzo è Tommen? Non è vero. È quello di Game of Thrones, sì. Oddio. Vabbè, però è cresciuto. Vabbè, comunque sì, non l'avevo riconosciuto mai nella vita. Ci sono delle comparsate veramente fighe, tipo sì. Mark Strong, che è veramente tosto, e tipo Andrew Scott, tipo c'è Richard Madden, che è quello di Game of Thrones, c'è Colin Firth, c'è Benedict Cumberbatch, che ha la vociona. E sono tutte comparsate perché di solito, cioè, la maggior parte delle scene contiene solo George McKay, oppure George McKay più Dean Charles Chapman. E basta. La trama del film è veramente stupida. E, non dico che è brutta perché non è brutta, però, è veramente... però non è importante, non è. Prima guerra mondiale, due soldati devono mandare un ordine, cioè devono portare un ordine a un altro battaglione che non è neanche troppo vicino da dove sono loro. E basta, cioè questa è la trama, è una quest di... Sì, diciamo che... è Death Stranding praticamente. Esatto, tu segui un fattorino, cioè, Death Stranding è più spessore anche. No, non manca Mads Mikkelsen, quindi è peggio. Cioè... vabbè, appunto, più spessore Death Stranding. Ah, ok, sì. La cosa figa, vabbè, la cosa che dà urgenza è che gli ordini sono di non attaccare perché è una trappola che i tedeschi stanno, sì, però non è da dire, tipo, è una roba, non so, c'è una roba famosa, storicamente famosa, almeno non che io sappia. No, perché è personale, cioè suo fratello è in quel battaglione che sta per Sì, ma attaccare. cioè, quello che secondo me la rende banale è semplicemente il fatto che non è una roba famosa da un punto di vista storico. Cioè, non è che allora quel battaglione non ha attaccato e quindi ha vinto la guerra, oppure allora quel No, no, no, è battaglione. una cosa sì, come tante, certo. Esatto, è una roba niente di che, e quindi per quello non dico, non posso dire che è stupida, perché non è stupida, in realtà è una cosa abbastanza figa. Però è un tutto sommato banalotta, in senso. Vabbè, ma non è quello il punto. Il punto di questo film e il motivo per cui ha vinto l'Oscar a miglior fotografia, e a quanto pare non ha vinto l'Oscar a miglior montaggio, è che è diretto come se fosse un piano sequenza, che però non è un piano sequenza, per ovvi motivi, perché dura 2 ore e tipo si svolge in teoria in un'enorme zona della Francia, quindi Sì, non sarebbe molto pratico, però vabbè, sarebbe forse leggermente più difficile di quello che effettivamente hanno fatto. sì, allora, col fatto che hanno voluto fare un enorme piano sequenza, simulare un enorme piano sequenza, da un punto di vista di fotografia e di montaggio, è una roba complicatissima, perché vuol dire che i tuoi occhi non si chiudono mai, di fatto. Cioè, quello che significa che tu guardi continuamente la scena, non c'è mai uno stacco, è praticamente in tempo reale, che poi non è vero, però vabbè. E tranne in un momento in cui lui sviene, mi pare, e basta. Sì, esatto, sono due piani sequenza, tecnicamente. Tutto il resto è in tempo reale, dovrebbe essere tipo la dimensione dovrebbe essere 1 a 1, cioè tu vedi loro che camminano, effettivamente è il tempo che loro ci mettono a camminare, poiché non sia vero o vero, no, non è un problema. Quello che tu vivi è questa cosa qua. Ed è molto bello, e secondo me merita l'Oscar a fotografia più di The Lighthouse, anche se mi costa tanto. Non lo so. Perché mentre The Lighthouse è solo una... Ah, questo è ovviamente a mio parere, non, vabbè, che poi devo specificarlo, ma il podcast è così, quindi se devo, vabbè. non voglio aprire questa parentesi. Se The Lighthouse è un mero esercizio di stile, questo lo è, ma almeno può essere giustificato, nel senso che alla fine, avendo fatto un intero piano sequenza così, è vero che lui voleva semplicemente far vedere che pisciava più lontano, ma a conti fatti rende bene non è neanche la dinamica, perché alla fine è statica, della Prima Guerra Mondiale. Cioè ti comunica questa sensazione che da una parte tu sei nell'azione, ma dall'altra non succede nulla, perché inquadri il vuoto. E quindi non solo è bello, non solo è difficile, ma è anche giustificato, cioè c'è un pretesto. Boh. Non so se è un pregio della fotografia questo. Vabbè, cioè non so se è grazie solamente alla fotografia, secondo me è più un pregio del film in generale, cioè di come è stato pensato. Sì, sì, no, ma la scelta di farlo piano sequenza può essere anche motivata dal contesto, e quindi questo lo rende superiore, perché di fatto non sei semplicemente uno che fa le cose difficili, ma sei uno che fa le cose difficili perché hai questa visione qui, che poi anche quello di The Lighthouse ce l'aveva, però è ovvio che è una roba più indie, mentre questa è una roba più evidente. Esatto, quindi... cioè Lighthouse è più ricercata e è una scelta puramente estetica. Qui è una scelta non solo estetica, ma tecnica, per un motivo ben preciso. Cioè non è solo di cercatezza. Sì, e quindi alla fine ha più senso dare all'Oscar a questo, per quanto mi costa tanto dirlo. Esatto, perché è un film sulla guerra e quello gli piace a loro. Quindi... allora, poi detto questo, premetto che io non sono un amante dei film di guerra. Questo film mi è piaciuto quasi tutto, è un po' lunghetto per i miei gusti, ma questo non si può, cioè non è una giustificazione. E, cosa non mi è piaciuto? Allora, questo film praticamente, poi magari dopo Jacopo si sbizzarrisce, per una volta comincio a spoilerare io. Allora, tralasciando il fatto che la trama è una stupida quest o no, e tralasciando il fatto che non ci sia molta sostanza, nel senso che loro sembra un po', sai, quei compitini ben fatti, da un punto di vista di trama, dico, tralasciando il fatto di fotografia e montaggio, eccetera. Sai quei compitini ben fatti in cui tu... tipo devi fare il compitino sulla Prima Guerra Mondiale, citi tutti gli esempi della Prima Guerra Mondiale, di cose che possono succedere o che sono successe o che succederanno, e li citi tutti, tipo, che cazzo ne so, tu che aiuti il nemico perché sei preso da un momento di empatia e il nemico che ti tradisce, oppure tu che incontri la superstite che vive lì e ti affezioni. Sono tutti momenti, tu che perdi un amico, tu che ritrovi un amico, sono tutti quei momenti lì e tutti quei temi lì che tu citi tutti, perché ovviamente per citarli tutti ci sta un secondo e basta, e ti porti a casa tutte le situazioni possibili. A me sembra un po' una puttanata, però poi io magari scommetto che poi c'è gente che ci è andata a nozze perché ha riconosciuto tutti i punti, ha detto, come una professoressa ha detto, o un professore ha detto, ah, questo è un compito fatto bene perché hai citato tutto quello che si deve citare. Però secondo me l'occasione c'era per andare più in profondità di alcune cose, e anche sacrificandone altre. È che è un po' come un giocoliere, cioè cominci a aggiungere 3, 4, 5 palle. Sì, sì, sì, esatto. Sono troppe palle toccare. E quindi, cioè, comunque, sto film, adesso magari c'entri un po' più in dettaglio tu in maniera sapio. Cioè, in questo film deve gestire il regista, vabbè, anche ovviamente montatori e vari tizi di effetti speciali e direttore della fotografia, deve gestire composizione, tre lenti diverse, quattro set diversi, gente cioè esplosioni, gente che corre, cioè... Comunque deve sempre girare scene di 5 minuti senza fermarsi, perché è comunque... Esatto, soprattutto combaciare, o almeno devi far finta che combacia. Perché è vero che non è un intero piano sequenza, ma comunque sono tutte scene da 5-10 minuti intere, montate una alla volta, quindi alla fine sono scene lunghe in tutti i casi. E non è facile tenerti attento se non c'hai tagli per rimettere a posto la composizione, per mettere l'enfasi su qualcosa, per fare, come sì, si sì. chiama, controcampo, campo controcampo, per fare inquadrare uno e poi inquadrare l'altro. Cioè è anche difficile per gli attori, per il blocking, per dove stare, per come mettersi. E allo stesso tempo la trama è piena di profondità, cioè di spunti di profondità che non prendi, cioè piena di elementi che potrebbero essere presi uno a uno e trattati, invece non lo fa. Sì, cioè, ti ci devi un po' fermare tu, secondo me, a pensarci. Tipo, a me è rimasto impresso poco a livello di trama di questo film, però un punto... Secondo me carino, cioè no carino, sembra brutto dire carino, però figo è quando lui, vabbè spoileriamo, fanculo, uno dei due protagonisti muore a un certo punto. Ah così, secco, va bene. Vabbè, succede molto presto nel film in realtà. Vabbè, non guardi questo film per questo motivo. Non lo guardi per questo motivo, ma diciamo è uno dei... Non voglio dire dei fattori scatenanti, però è un po', capito, finisce l'atto 1 e inizia l'atto 2. Quindi c'è un po' una spinta in più di trama, di serietà, di emergenza che c'ha questo film. Un po' come ce l'ha in Salvare il soldato Ryan, quando gli muoiono tutti i fratelli a Ryan. Cioè, è un po' come... È un momento che potevano farlo molto diverso, come anche un po' l'eroismo dell'altro protagonista, potevano gestirlo in maniera diversa. Mi è piaciuto un sacco come l'hanno gestito. Cioè, lui muore male, muore in fretta, e cioè, sono impanicati. Cioè, è un momento che sembra... Cioè, se lo guardi, sembra una cosa quasi melodrammatica, capito? Dici, ah, l'eroe che muore, che pensa alla famiglia, che pensa... Però è anche patetico, cioè, anche... Non lo so, mi è sembrato molto, Ma molto reale. capisci che però tutto questo è mischiato con lui che l'ha presa in culo dal tedesco, Gravitato, esatto. lui che non voleva esserci, questi che arrivano subito dopo e gli dicono che stanno da un'altra parte, il battaglione di questo che lo prende subito, che non lo prende in simpatia e poi lo prende in simpatia. Cioè, è pieno di cose, elementi che sono belli perché sono interessanti, sono belli, fanculo, ti piace sta roba qua. Però sono super, cioè sono trattati super velocemente. È Sono solo vero. citati. Ed Anche il è fatto che... quelli che ho citato io sono tutti in quella scena lì. Cioè, Sì, non sì, è sì. che ho detto in tutto il film. Ma è anche, cioè, in un certo senso è anche realistico, cioè, è un po', va un po' a discapito del film, però è anche un po' realistico perché non ci si soffermerebbero. Anche sul fatto che, tipo, sono giovanissimi, che è una cosa che ogni volta mi sconvolge, tipo, se vi capita, guardatevi il documentario di Peter Jackson restaurato. Non so se l'hai visto, Salla. Ovviamente no. Cioè, praticamente Peter Jackson ha buttato un fottio di soldi e di tempo con una sua, non so se con la Weta, con altri, per prendere del minutaggio girato dal vivo durante la Prima Guerra Mondiale e restaurarlo, ma a colori, e riuscendo anche a simulare dei suoni e dei dialoghi che ovviamente non potevano prendere in ripresa diretta. Sì. Ed è inquietante perché vederlo così, cioè con le tempistiche dei frame corretti, con i colori corretti, fluido, vedere queste persone così definite anche come un movimento, è strano. Ma non mi ricordo come si chiama. Oddio, aspetta, lo cerco un attimo perché era un nome pure interessante. Però cioè, anche in quel documentario ci sono dei dettagli su cui non si sofferma, che è... Cioè, sono così, cioè, da così e basta, non è che se di... È vero anche che la Prima Guerra Mondiale in generale è sempre sacrificata, però vabbè, In che rispetto alla Seconda Guerra senso? Mondiale ci sono un sacco di robe da dire che non vengono dette, mentre la Seconda Guerra Mondiale l'ha trattata in 500 milioni di film, Ah, forse mi è sì. rimasta un po' di curiosità di guardare poi a me, ripeto, frega il giusto, però cioè del fatto che ci sia uno che salva gli ebrei in casa è interessante, ma ne abbiamo visti in tutte le salse. Sì. Il fatto che sia un generale che è guerrafondaio e manda all'attacco i suoi uomini in tutti i casi, non l'abbiamo mai visto, o l'abbiamo visto un paio di volte, o mai. Cioè, sì, perché se magari tu dici prima guerra mondiale, come la seconda un po' prima, però in realtà la mentalità era molto più ottocentesca, la mentalità della guerra. È diverso, sì. Comunque si chiama They Shall Not Grow Old, questo documentario. È figo, guardati qualcosa, che anche da un punto di vista di fotografia, di restauro, è interessante. Lo segno. Magari trovate. Giusto qualche scena ti puoi guardare, non è che... 2 ore e 9 minuti. No, va bene. Puoi skippare le scene. Ormai, no, durata 99 minuti. Quindi non sono 2 ore. Va bene. Vabbè, me lo segno adesso, comunque va bene. L'altra cosa che volevo dire, che invece non c'entra una sega con questa, era più riferita a il piano sequenza in sé, cioè la scelta di girarlo così. Allora, il titolo di questa puntata si chiama Parliamo di videogiochi. Perché? Perché questo film è girato come se fosse un videogioco, o meglio, ti sembra un videogioco di guerra, di fatto, perché avendo questa cosa del piano sequenza, è come se tu camminassi sempre con sti due, o dietro, davanti o intorno. È come se tu continuassi a camminare con loro nello stesso, cioè i tempi sono gli stessi. E quindi ti dà questa impressione qua che tu sei lì in questo momento, in quel momento, e stai giocando, tra virgolette, perché non è un gioco, però è come se tu stessi giocando un gioco di guerra. Se tu giochi a Call of Duty, ti puoi immedesimare in sta roba qua, con due grosse differenze. La prima è che in questo film non succede quasi un cazzo. Quindi se fosse un videogioco, sarebbe un videogioco parecchio brutto, cioè un simulatore di camminata fondamentalmente. L'altra differenza è che la telecamera non si muove, cioè la telecamera va dritta e fluida. Mentre nel videogioco tu devi dare un input e devi essere realistico. Allo stesso modo non hai l'input, quindi non puoi decidere quello che succede. Per cui cosa succede? Che o questa cosa ti piace tanto, perché la stai vivendo tu, perché cazzo ti senti lì in mezzo, sì, ti è fluido, il tuo occhio è sempre preso d'attenzione, eccetera, o ti rompi i coglioni, perché onestamente di veder loro che camminano, dopo un po' ti rompi le palle. E quindi niente, volevo dire che sì, è molto bello, sì, c'è una sospensione di incredulità, di vedi queste cose magnifiche, però potresti anche romperti le palle. Alla fine sono 2 ore di stare qua. Sì, diciamo una cosa... Vabbè, alcune scene è imbarazzante perché si vede proprio che hanno dovuto forzare della prospettiva per... Tipo quando vanno sopra la collina. Esatto, sì, stavo per dire quello. Diciamo in un videogioco è simultaneamente più difficile ma anche più facile farlo. Perché la telecamera la puoi mettere dove cazzo ti pare... O magari la lasci al giocatore finché non devi forzare una cutscene, cioè un filmato dove il giocatore non può fare nulla. Ma di solito, cioè, hai dei momenti in cui il giocatore può fare con la telecamera quello che vuole, e di solito, cioè, è roba che gli serve per sparare, non lo so, i nazisti. E poi hai dei momenti... Sono nazisti, dovevi dire. Sono nazisti, scusa. E poi hai dei momenti dove la telecamera fa quello che vuole, ma in quel caso paradossalmente è comunque difficile anche in un gioco fare un piano sequenza, perché comunque hai un po' le stesse difficoltà che hai con un film, cioè che devi cambiare, magari devi cambiare set senza che il giocatore o lo spettatore se ne accorga, devi cambiare location, caricare roba, eccetera. Sì. Quanto ti è sembrato Death Stranding sta roba qua? Come? Quanto ti è sembrato Death Stranding sta roba? In Death Stranding c'è una sequenza effettivamente della prima guerra mondiale che mi ha ricordato un po' sta cosa, ma in Death Stranding con la telecamera lui è un po' più libero, cioè non è che si sta a fare problemi se deve fare un taglio, non si sta a impiegare. Perché quello che mi ha ricordato è stato appunto subito un videogioco, cioè nel senso che i primi momenti sei tu che percorri, loro che camminano nella trincea, ed è bellissimo se ci pensi come idea, perché essendo un piano sequenza, tu vedi tutta la trincea che ti scorre davanti o indietro a seconda di dove è messo. E sembra appunto un videogioco di, cos'era, Call of Duty 2, che camminavi nella trincea e allo stesso modo. Però dopo un po' ti rompi le palle, perché, cioè, nel senso, non è che i tagli in un film sono fatti a cazzo, i tagli, se sono fatti bene, hanno un motivo. Come qua, non aver fatto tagli ha un motivo. Però ecco, bisognerebbe, non lo so, questo è personale ovviamente. No, secondo me hai ragione, cioè, è che in questo film ci sono alcune scene che forse potevano andare un po' più in fretta e che questa scelta le ha un po' rallentate, perché un po' come Birdman, cioè in Birdman avevi tantissime cose che succedevano e scene e cambi e un sacco di trucchetti per velocizzare il tempo. Lui qui non ha voluto usare nessun trucchetto a parte quello che sviene. Sì, quindi, quando sviene basta. Quindi secondo me dopo un po', siccome magari tu sei abituato a vedere un piano sequenza tipo, che ne so, in Goodfellas, cioè, quando sviene, come avrei potuto fare? Farlo dormire, cioè non ce la poteva fare. No, ovvio, no, però dico, poteva farlo in altre scene, perché comunque tu sei abituato tipo in un film tipo Goodfellas o altri film dove ci sono piani sequenza lunghi, tipo 3, 4 minuti, 5 minuti, sei abituato che c'è un motivo per quel piano sequenza, devi stare attento. E tu, siccome sei abituato ai tagli come linguaggio, dici, cazzo, questo regista sta cercando di fare qualcosa e ti sta un po' immergendo in questa situazione, ti sta un po' te la sta facendo vivere con i tempi dell'azione senza tenerti nascosto nulla, perché è importante. In questo caso, cioè, magari questa tensione che c'hai, questo senso di, oh, perché non taglia, esatto. Ti rompe i coglioni, perché dici, sì, ma non c'è, perché, cioè, potresti tagliare, che cazzo me ne frega di vedere questi che camminano per 15 minuti. Sì, è un simulacro, ci sono dei momenti che poi, per l'amor di Dio, alcuni panorami sono bellissimi, cioè alcune scene, alcuni paesaggi ricostruiti o quello che vuoi sono incredibili. Però che palle, cioè, anche Star Wars dei paesaggi belli, però non è che poi, nel senso, tra fare sto film qua e fare un trailer in cui taglio ogni 2 secondi, ci deve essere una via di mezzo che non sproporziona tutto. Poi vabbè, è ovvio che la loro scelta era questa, altrimenti non avrebbero vinto niente, nessun Oscar nella loro vita, però non lo so. Cioè, potevano, secondo me, inventarsi qualcosa per queste 3-4 scene per velocizzare l'azione in maniera... Sì, o anche, visto che alla fine la trama è semplicemente un pretesto, tanto vale fare una trama un po' diversa e adattarla meglio a questi momenti lunghi. Cioè, io avrei preferito 1 ora e mezza di piano sequenza in cui magari... facevano altro. Ovvio che non puoi fare una scena di battaglia vera e propria, perché comunque è la prima guerra mondiale. E tra l'altro la scena di battaglia, il finale, è incredibile. Sì, quella è davvero un unico piano sequenza di tipo 6 minuti. È incredibile. È un miracolo quella scena, è un miracolo di artificieri, stuntmen. Sì. E effetti speciali. E quella della notte è imbarazzante. Sembra... A me è piaciuta molto. Quella ti volevo parlare un attimo, cioè la scena di lui al buio, che ogni tanto sparano un flare e illumina tutto e c'è la luce che cambia direzione velocemente. È a totalmente annullata dalla scena di lui che piscia e lui che l'ammazza. Vabbè, sì, sti cazzi, quello non mi interessa. No, volevo, cioè, da un punto di vista di tecnica, secondo me c'era qualcosa di non banale dietro, perché comunque io pensavo, cioè magari all'inizio pensi, vabbè, spari un flare per aria e quello è quello che succede, perché se non ci sta la luna, che altro ci sta che illumina? Però la cosa figa è che, a parte che puoi nascondere i tagli perché è tutto buio, è molto figa come idea, ci sta, cioè molto all'antica come idea. Perché se no nelle altre si sono dovuti inventare tipo uno che gli passa davanti, oppure semplicemente c'hai i tracking quelli meccanici, quindi puoi rimettere la telecamera dove era. Sì, però è complicatissimo. In questa scena, secondo me, a parte questa cosa, secondo me è carina questa idea di tagliare nei momenti bui, secondo me non è banale realizzarla proprio a livello di luci, a livello di esposizione dell'ottica, di cosa devi usare. Come il set in quel momento, e sicuramente non sono un esperto di video, però considera che i flare non saranno flare sicuramente, quindi... Che cazzo so, non so, tipo dei LED con i, con i cavi? Dei flash, sì, dei LED. Non lo so, però io non sono molto bravo non studio molto l'illuminazione, non ho studiato mai molto l'illuminazione, gli schemi di luce, quindi non ti posso aiutare. Sono abbastanza ignorante. Mi ricorda una scena di un film bellissimo che si chiama Thor Ragnarok. No, però quelle scene sono veramente fighe, le scene quando c'ha le visioni... cosa? Come si chiama? Valkyria, là. No, non lo so, forse dovrei riguardarla pensando a qualcosa, ma visto che quella scena è abbastanza avanti... In quel momento mi ero già mezzo appisolato. E era stamattina, quindi... Poi la scena dopo francese, parla in francese, quindi ancora peggio. Sì, no, la scena dopo ho skippato, te lo dico. Cioè, non ho skippato la scena, ma ho skippato dei pezzi in cui dice latte, latte, latte, chi è la tua mamma? Hai dei bambini? Io lì ho guardato tre per, non ce la potevo fare. E poi sì, dopo si recupera il film. Dopo il finale è bello, dalla canzone, che è molto bella anche quella, alla battaglia, che è veramente, veramente bella. No, vabbè, e comunque se non avete ancora visto, guardatelo. È un film di guerra che non ha molte scene cruente. Ma guardato, secondo me, cioè la trama non importa, è l'esperienza visiva che conta. Ti può commuovere anche in alcuni punti. Tipo quello della lettera è molto carino. E non c'è molta profondità perché non l'hanno fatto, cioè hanno citato un sacco di cose, però allo stesso tempo uno la può trovare se la cerca, è il solito discorso, solo che appunto devi far tu il lavoro che avrebbero dovuto far loro. E io sono contrario a tutto questo. Esatto, puoi lavorare il meno possibile. Esattamente. No, vi consiglio anche, se non l'avete visto, come contrapposto, cioè come quasi opposto, Dunkirk. Non l'ho visto. Se vi capita, anche quella è un'esperienza visiva, ma in quel film Nolan si diverte a fare salti temporali ed è un'esperienza anche uditiva. E quindi... è il film in cui ha vinto il montaggio l'Oscar Lee Smith, che è quello che fa il montaggio di questo film. Ah, Dunkirk? Sì. Non sapevo, però sì, cioè anche lì... Perché lui ha lavorato anche con Nolan, ha fatto il Cavaliere Oscuro, qui è stato candidato, tra l'altro, come miglior montaggio. E basta, e l'altro è Lavorone. Comunque è bravo sto Lee Smith, non sottovalutate mai il direttore del montaggio. È uno degli elementi migliori dei film di Tarantino, infatti quando gli è morta poi hanno fatto un declino assurdo. Sì. Però Tarantino per esempio è uno che taglia sempre, ecco, una via di mezzo la vogliamo fare. No, vabbè, lui in realtà su Hateful Eight e su Hollywood taglia troppo poco, secondo me, ci mette troppo tempo a tagliare, però vabbè. Hateful Eight perché è solo dialogo, sai, non è, sono solo monologhi. Sì, sì, ma almeno, cioè, Hateful Eight era pure bello da vedere, Hollywood poteva un po' accorciarlo. Tipo, no, però, per farvi capire, è questo signor dottor Lee Smith, australiano, lui ha cominciato con Howling 3 e Robocop 2, però lui ha fatto dei robini tipo The Truman Show, tipo Master and Commander, tipo Batman Begins, The Prestige, Cavaliere Oscuro, Inception, X-Men, Il Cavaliere Oscuro 3, Elysium, cioè comunque Interstellar, Dunkirk, 1917, cioè è uno che, insomma, conosce il suo mestiere. Ci sta. Basta, niente, dai. Spero di non avervi annoiato troppo in questa puntata semisapio. Grazie di averci seguito e ora vado a montare, visto che è mezzanotte. E buonanotte. Buonanotte.